Buonasera a tutti, mentre sono le 21:04 minuti e stiamo naturalmente con i colori dell'anima, vero Anna Maria? Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Come stai? Io sto bene, meglio della scorsa settimana. Uh-huh. Sei guarita? Sono guarita. E c'è un'altra persona che è guarita. Ciao Fiorella, buonasera. Buonasera, io sto montando lo studio, come sta dicendo Anna Maria. Non riusciamo a tenerla. Uh-huh. Non è venuta una puntata, stasera non riusciamo più a tenerla. Ho scoperto che questo tavolo si divide in due, ho scoperto quale delle due. Stiamo parlando di scoperte e oggi ho scoperto che questo tavolo è smontabile. È smontabile, ma non lo smontare però, sennò qua dobbiamo pagare pure i danni. No, perlomeno arriviamo alla fine della trasmissione. Perlomeno, benissimo. Va bene. Allora, quindi la nostra amica Fiorella questa sera ai colori dell'anima ci parlerà un po' di conquiste. Dunque, diciamo subito che l'idea è stata così scaturita dal 12 ottobre, infatti con Anna Maria la settimana scorsa, una settimana fa, abbiamo parlato di Cristoforo Colombo, della scoperta dell'America, che non si può chiamare scoperta perché prima di Cristoforo Colombo ci sono stati altri popoli che sono arrivati in questa terra e quindi non è stato il primo ad arrivarci, ma prima di lui addirittura i Fenici, pensa, erano arrivati in questa terra. Quindi, e poi soprattutto agli americani, ai latinoamericani non piace il termine scoperta, quindi loro l'hanno abolita. Noi parliamo della scoperta dell'America, ma appunto non va bene. E allora, quindi, dalla scoperta dell'America, che non è politically correct, ti sono venute in mente un po' di idee sulle conquiste. Dici sì. Qualcosa. Allora, io penso che possiamo fare una puntata un po', non dico sui generis, ma mettendo cose visive, poi... non mi guardare con quella... No! sì, ma questo lo lasciamo per la fine! Comunque, devo dire che mi è piaciuta molto l'idea della conquista. Quest'estate, adesso ci facciamo un po' i fatti miei, sono stata in vacanza in Portogallo. Scusa Fiorella, ma noi ti abbiamo invitato apposta. ma ve lo potevo dire per telefono, ragazzi. No, che divertimento c'è, se lo dici solo a me. Vabbè, allora, sono stata in Portogallo, è stata un'esperienza bellissima. Dunque, partiamo visualmente per parlare delle conquiste, della Torre di Belém. Che cos'è la Torre di Belém? Dunque, immaginate Lisbona, parte più estrema dell'Europa, e più estremo di così non ci può essere, perché sono tutte queste scogliere a picco, questo oceano che fa paura perché diventa subito, come dire, subito profondo, con tutti questi fiumi che danno sul mare, e Lisbona con il Tago e questa Torre di Belém. Dunque, adesso ritorniamo indietro nel 1400. Torre di Belém, che cos'è? È una torre. Che devo fare? Con le mani non dovresti toccare il tavolo. Ah, scusami, c'ha ragione. Si sente un rumore. Stasera la dobbiamo legare. Vabbè. mi tengo il foglio. Allora, Torre di Belém è una torre da cui partì a qualche chilometro di distanza da Lisbona, è una torre che riproduce esattamente la forma di una nave, dunque la chiglia, la torre, i bastioni, e da qui partivano le navi alla scoperta. Dunque si ha anche questa sensazione di nuovo mondo, di un perché, che cosa c'è all'aldilà, perché si lasciano le terre note verso un qualche cosa. Non è il Mediterraneo, che è un mare calmo, circoscritto, ma è l'incognito. Dunque, anche a livello psicologico, cerchiamo di metterci in questi naviganti che affrontavano il nulla, un qualche cosa. Dunque, e arriviamo, cioè partiamo al 1000. Allora, bisogna anche dire, ci sono due posti importantissimi di Lisbona, che tra l'altro hanno segnato anche la nostra storia europea. Dunque, Belém, per quanto riguarda la partenza dei naviganti, Vasco da Gama, e il monastero di Geronimo. Sto ferma. Dunque, il monastero di adesso Geronimo. La leghiamo. Monastera di... Navighiamo in acque calme adesso, giusto? Quello era il rumore di quando si mette una caravella in mare, giusto? Bisogna dire anche che i portoghesi hanno inventato queste caravelle molto leggere, molto facili per gestire il mare. Dunque questo è anche, come diciamo prima, vogliamo dire non solamente la scoperta, ma cosa che è intorno alla scoperta, che cosa porta di bene o in male. Dunque la prima cosa che vediamo in bene è la fabbricazione di queste tipiche caravelle portoghesi, poi anche degli strumenti di navigazione. Non bisogna dimenticare che il Portogallo ha potuto beneficiare degli anni prima dell'invasione, del loro rigettare fuori i Mori, ma diciamo che gli Arabi avevano portato in terre portoghesi molte scoperte utili per la navigazione, di cui poi diciamo l'Occidente ha potuto beneficiare. Diciamo anche che ha potuto beneficiare che sempre grazie ai Mori Arabi, chiamiamoli come vogliamo, dello zucchero, dunque di una certa ricchezza di sottofondo, di base, per cui poter approntare le navi e partire verso il mare aperto, giusto? Vabbè. Preparatissima. Non ho capito. Sei preparatissima stasera. Bravi. Poi mi dà tu. No, diciamo che questo viaggio che io ho fatto in Portogallo, e io penso che ogni viaggio forse nostro dovrebbe essere, almeno io lo affronto in questa maniera. È interessante quando pone degli interrogativi, ci dice ok, non è soltanto l'impatto visivo su qualche cosa. Il Portogallo è un paese molto aspro, io l'ho visto, non è il trionfo del barocco, eccetera, eccetera. Però a livello fisico, di territorio, pone delle domande, cioè perché è veramente la nostra punta estrema dell'Europa, e penso che sia stato forse il ponte verso il futuro. No? Sembra un paese che adesso come adesso in Europa forse, non dico che è in fanalino di coda, ma è uno di quei paesi che sta soffrendo di più, certo. Però è grazie a lui se si è scoperto nuovi mondi e se l'Europa stesso ha potuto beneficiare di tutto questo. Poi bisogna anche applaudire al coraggio che hanno avuto, diciamo prima in macchina, no? Io sarei voluta stare non come la nuova Miss, come si chiama, Miss Italia, che sarebbe voluta stare nella seconda guerra mondiale, vabbè, quella che ha fatto. Però nei panni uno di questi naviganti, per avere, non lo so, questa voglia dell'ignoto, o anche il fatto di vedere popoli completamente differenti da noi. Cioè, non lo so, hanno avuto forse non erano neanche coscienti. Ma chissà, io spero di sì, che qualcuno in tutta questa... molti non sono più tornati, cioè non soltanto perché i poveracci sono morti, ma anche forse molti hanno deciso di rimanere in quelle terre perché quelle terre erano più propizie e hanno visto un loro futuro, come i nostri migranti, noi quando andiamo in America, quando sarebbero tornati? Molti non sono mai tornati, giusto? Uh-huh. Ecco. Però forse hanno deciso di tenere duro. Uh-huh. Boh, adesso però intanto parla un pochettino tu, perché io guardo un attimino le date. No, io non sono preparata. Ma io gli occhiali da lontano. Noi pausavamo proprio su di te. Ah, capisci? Ho capito. Noi, va bene. Noi ci siamo dette con Rosana. Di musica. Dai, andiamo, tanto bene. Fiorella. Allora, per quale motivo i portoghesi... Cioè, normalmente abbiamo visto i portoghesi... Per quale motivo... Fino al 1492, perché si scopre l'America, perché scoprono la rotta delle Indie e perché si fa circunnaviga l'Africa? Perché fino a quel momento c'era la Repubblica di Venezia che deteneva tutta il monopolio di tutto ciò che veniva dall'Asia, giusto? Con la rotta, con la strada della seta, Marco Polo, l'avete fatto ampiamente, io penso, lunedì scorso, dunque io non mi attardo. No, non l'abbiamo fatto ampiamente. Ci sta prendendo un pochino in giro. L'abbiamo accennato, spiritosa. No, ma comunque io non mi sono preparata sull'America del Nord, io sono sull'America del Sud e sull'Africa oggi. No, vabbè, sto scherzando. Perché si parte alla conquista? Come dicevo prima, Venezia era una potenza affermatissima e non c'era più modo di poterle prendere questi territori. Volevano andare verso l'India, però in quell'epoca lo stretto del Bosforo era bloccato dagli arabi, dunque non si poteva più passare. Dunque i portoghesi decidono, si pensa, di circumnavigare l'Africa. pezzettino pezzettino, un pochettino come hanno fatto i fenici nel bacino del Mediterraneo. Dunque i portoghesi hanno iniziato a circonnavigare l'Africa per andare nelle Indie, giusto? Dunque la prima spedizione è fatta, scusate ma io le date, dunque ma non è poi così importante identificare la data. Perché si chiama Capo di Buona Speranza? Tu lo sapevi? Non lo so, spero che me lo dica tu. Lo sapevo, ecco appunto. E tu sperai. Perché Diaz partì nel 1488, non ci riuscì e lo chiamò Capo di Cattiva Speranza. Quando invece ci passò Vasco da Gama, visto che lui invece passò, da lì fu chiamato Capo di Buona Speranza. Bravissimo. Vai, ho letto, bravissimo, perché non mi ricordavo più niente. Bon, allora, in tutti i casi, gli spagnoli, cioè, perché dovete sapere, cari ascoltatori, se siete un po' di più, che noi ci stiamo parlando, giusto? Allora, adesso. Allora, sì, no, io proponevo un piccolo brano musicale, ci ritroviamo fra poco con queste conquiste, con la nostra amica Fiorella che è preparatissima, che ha ripreso tutti i libri di storia di quando era piccola e che quindi ci sta raccontando tutte queste belle storielline. E ci ritroviamo fra pochi minuti, mi raccomando, rimanete con noi, con Radio Alma, con I Colori dell'Anima, che come sapete sono con voi dalle 21 alle 22. A dopo! Allora, eccoci ritornati con I Colori dell'Anima, con Anna Maria. Buonasera Anna Maria, di nuovo. Di ciao. Nuovo, buonasera. E con la nostra ospite Fiorella, con la quale stiamo parlando di conquiste. E adesso c'è un piccolo problema tecnico che pare che Fiorella non sente niente, però non fa niente Fiorella, puoi parlare lo stesso anche se non senti dalle cuffie, ti sentiamo noi. Sentite voi, ma non io? Ci sentiamo, l'importante è che ti sentiamo noi. Vabbè, l'importante è che... Tu sai quello che dici, quindi ci siamo. Siamo ancora a Lisbona, siamo partiti, non siamo partiti? Sì, siamo arrivati al Capo. Siamo partiti, di Buona Speranza. Allora, a quell'epoca, rifacciamo un passo indietro, sempre su Lisbona. Tutte queste scoperte naturalmente portano grandi ricchezze in Portogallo e allora si costruisce il grande monastero di Geronimo. Che è il monastero dedicato alle conquiste, dove tra l'altro sono seppelliti Vasco da Gama, Pessoa, un poeta portoghese che io adoro. Questo castello, questo monastero di Geronimo è importante non solamente per quell'epoca, ma è importante anche per la nostra storia attuale, perché nel 2007 fu firmato il Trattato di Lisbona per la Comunità Europea. Dunque, passato e presente che si ricompongono, giusto? Allora, perché dicevamo questa è la rotta verso l'Africa, no? Però c'è anche la rotta verso le Americhe. Cristoforo Colombo apre la strada agli spagnoli e purtroppo l'apre anche Hernán Cortés. Tu dici forse Joaquín Cortés, comunque diciamo Cortés e cortesia. Cortesia, non so, sarà qualcuno della sua famiglia, Joaquín Cortés. Adesso qualcuno sicuramente a casa si mette lì e si informa. Brava. E magari ci telefonano. Poi, visto che a quell'epoca avevano anche dei nomi doppi, poteva chiamarsi, avrebbe potuto chiamarsi Hernán Joaquín Cortés, tutte e due, e non se ne parla più, giusto? Perfetto. Allora, purtroppo l'arrivo degli spagnoli, come sappiamo, in 4 anni, 1500, nel 1500, distruggono l'impero azteca. Però nel frattempo che cosa si è portato nel vecchio continente? Dunque, prima cosa, delle culture differenti, no? Patata, pomodoro, il cacao. Allora, la storia del cacao. Il cacao era il nettare degli dei per gli azzedi e per gli inca, era usato nelle cerimonie perché si offriva, gli azzedi mi pare che lo bevessero freddo mentre gli inca caldo. Tra l'altro, nelle cerimonie di sacrificio, i sacerdoti aztechi avevano l'abitudine di tagliarsi e di far scolare il loro sangue nel cacao, non so, forse dagli un po' più di sapore, e dovevo non c'era lo zucchero, non c'era lo zucchero. No, brava, hai detto una bellissima cosa, perché prima dell'arrivo degli spagnoli il cacao si beveva con pepe e peperoncino. Solamente gli spagnoli, arrivando non apprezzando questo sapore un po' amarognolo, hanno introdotto l'uso dello zucchero nel cacao. Dunque, e bisogna dire che queste fave di cacao... Ed è nata la Nutella. È nata la Nutella, sì. Qualche anno dopo, dai. Qualche anno dopo. Dunque c'è patate, cacao, tra l'altro la bevanda del cacao era apprezzatissima in quell'epoca, in quel periodo in Europa, in Spagna. Perché essendo altamente nutritiva ed essendo soprattutto in periodo di quaresima veniva usata moltissimo, perché il divieto del digiuno era sulle cose da mangiare ma non da bere. Dunque, sai, la bistecca poteva essere sopperita a una bella tazza di cioccolata a questo punto. Dunque, ecco perché l'uso anche abbastanza, come dire, massiccio del cacao. Altra curiosità, il cacao fu pure offerto alla corte di Francia, ma non gli piacque tutto qua. Parlavamo di conquiste, gli spagnoli, perché adesso dei portoghesi sono passati agli spagnoli. Gli spagnoli introdussero in Italia la coltivazione del riso, lo sapevate questo? Soprattutto nella corte napoletana. Ma i napoletani non gli piacevano queste cose qua, dicevano che erano sciacquabudelle, non sapevate niente. Dunque, i cuochi napoletani inventarono il capolavoro della cucina napoletana, il sartù. Perché l'hanno tanto arricchito, perché i cuochi dovevano effettivamente far mangiare questo riso ai dignitari di corte. Dunque, lo hanno talmente arricchito, diventando veramente forse il non plus ultra della cucina napoletana. Dunque, abbiamo gli spagnoli, iniziano a conquistare l'America Latina, i portoghesi, l'Africa. A quel punto si impone un trattato delle tortillas. No, aspetta, no, quelle sono le... Quelle sono un'altra cosa, però tanto sì, siamo qui, parliamo di mangiare. Allora, ci sta venendo fame, non so voi. Tordesillas, il trattato delle Tordesillas. Però gli somiglia, vedi? C'è uno fame pure a quell'ora, forse. Lo so. E questo trattato? Questo trattato, quindi regolava i possedimenti spagnoli e portoghesi. Era una linea in verticale che andava dal polo nord al polo sud. Tutto ciò che era est, dunque Africa e tutto quanto, ai portoghesi. Oh. L'altra parte agli spagnoli, a parte il Brasile. Dunque, e questo ci dà anche forse, come dire, l'idea, il perché ci sia stata tanta di lingua portoghese in Africa e poi verso il Sud America e non di lingua spagnola, dunque, in base a questo trattato. Dunque, allora, a questo punto diciamo che le grosse conquiste, quelle del baccalà ce lo diamo per ultimo. Sì. Dunque, le grosse conquiste sono fatte, diciamo i giochi sono fatti. Allora, qual è nel 1500-1600, qual è la situazione in quel momento fra il nuovo e il vecchio mondo, giusto? Dunque c'è stato. Allora ritorniamo al discorso, all'idea principale. Che cosa portano le conquiste di bene o di male? Iniziamo con quelle brutte, purtroppo. Inizia con, purtroppo per colpa degli spagnoli, lo sterminio delle popolazioni indigene del Sud America. Per quale motivo? Prima cosa, perché si sapeva benissimo che purtroppo le truppe di Cortés, come si chiama di nome non lo sappiamo, se qualcuno ci telefona ci dice come si chiama, sterminarono quasi la popolazione, prima cosa rendendola schiava e dando poco nutrimento. Dunque sono morti molti di fame, molti con molte malattie che sono stati portati dai soldati spagnoli, certo, in Sud America. Dunque questo è stato uno sterminio piano piano, mentre a scambio di malattie gli spagnoli hanno introdotto purtroppo la sifilide in Europa, cosa che non esisteva prima. Questo indebolimento delle popolazioni del Sud America ha portato purtroppo all'inizio della schiavitù in Africa, perché c'è un documento in cui si diceva, allora c'è anche il fatto che non si riconosce l'anima alle persone di africane, dunque sì, c'era la grande di pelle nera, quindi di pelle nera, mm-hmm. e dunque, beh, no, di pelle nera, perché di pelle scura erano anche i latinoamericani, mm-hmm. proprio le popolazioni africane, dunque mm-hmm. da lì si inizia la schiavitù verso dall'Africa, anche perché avendo affavorito moltissimo le popolazioni del Sud America, erano questi erano avevano bisogno di dei colucci, dunque non c'erano più schiavi, ecco. Dunque a quel punto si inizia la schiavitù dall'Africa. Queste sono alcune cose. Altra cosa, cioè, scusami Fiorella, si inizia la schiavitù, che significa che gli schiavi vengono portati dall'Africa in America Latina o in America? No, vengono portati verso le Americhe, verso l'Europa, dunque si inizia, uh-huh. perché prima c'era traffico degli schiavi, cioè non cioè tutti mancava erano... la manodopera, tra virgolette, diciamo. Bravo. A parte qualcuno, Pocahontas, che si è salvata, ma gli altri purtroppo erano presi come schiavi, portati sia all'Europa che a lavorare anche nelle miniere, perché non ci dimentichiamo che erano domini per cui in Brasile e tutta l'America Latina c'erano le miniere di oro, di argento, e li mettevano gli schiavi, i nativi del luogo a lavorare. Dunque, altra cosa negativa naturalmente è che si formano queste grandi potenze, diciamo, commerciali, perché sono tutte rotte commerciali adesso, perché è il dio denaro che si va alla ricerca di tutte queste. Dunque troviamo Francia, Inghilterra, Spagna, Inghilterra e Olanda. Diciamo sull'Olanda che è stata molto furba a prendere il monopolio del caffè, del cacao, agli spagnoli. Dunque l'Olanda ha avuto il monopolio del cacao, dell'importazione, l'ha soffiato alla Spagna. Dunque, e ognuno per mantenere questi possedimenti, naturalmente a questo punto iniziano le guerre. Dunque le guerre per mantenere i possedimenti. Dunque, altra cosa negativa, giusto? No. Si inizia anche uno spostamento della ricchezza dal bacino mediterraneo, si sposta verso le coste dell'Atlantico, dunque i nuovi mondi. E visto anche la vastità del territorio, iniziano anche queste migrazioni dall'Europa verso il nuovo mondo, verso gli Stati Uniti, cioè quello che poi diventeranno Stati Uniti, giusto, verso le Americhe, no? Poi si inizia anche le grosse compagnie di navigazione, questo è molto importante perché poi hanno influito anche su tutti gli andamenti politici. Scusate, guardo perché la memoria a una certa età fa un pochettino cilecca. E diciamo che mi pare sì. E poi naturalmente la nascita anche di una certa borghesia. Prima c'era tutta l'aristocrazia, giusto? Re, regine, regnanti, eccetera, eccetera, imperatori. Poi inizia la borghesia, che nasce proprio da questo sviluppo delle compagnie medievali. E poi c'è anche tutta una rivoluzione a livello agricolo, cioè cose che non si poteva neanche lontanamente immaginare vengono coltivati in Europa. Facciamo alcuni passi indietro. I primi veramente che portarono anche coltivazioni furono i templari. Per esempio in Portogallo furono i templari che sfruttarono al meglio le piantagioni di olivi, di vite, sono loro stessi che li riportarono. Sai, poi sai, c'era anche questo con le crociate, noi le guardiamo sempre come una guerra religiosa, cioè soltanto armi e tutto quanto, ma è come anche le scoperte, c'è sempre un qualche cosa in più, chi si porta, non lo so, una piantina da Gerusalemme e poi la mette non so dove, cioè come facciamo ancora adesso noi, giusto, ti ricordo? E può darsi che anche all'epoca l'abbiano fatto e molte cose sono passate da una parte e dall'altra, giusto? Uh-huh. Allora, e adesso arriviamo ai pesci. Sì, adesso. Allora. Mi sembra una minaccia questa del pesce, sì. Che non capisco. No, allora, per esempio, abbiamo anche molti rivoluzionamenti anche dal punto di vista alimentare, no? All'epoca a Venezia, parliamo sempre di un momento quando sono iniziate le scoperte in cui la Chiesa era molto potente. E le quaresime venerdì erano molto sentiti, dunque si doveva mangiare pesce, pesce e pesce, anche perché costava di meno e tutto quanto. Dunque si andavano sempre a cercare banchi di pesce sempre più lontano. No? Nel lontano 1400 qualche cosa, 90, ci fu un certo Guerrini che partì dalla Repubblica di Venezia e andò verso i banchi di Terranova. A quel punto ci fu una tempesta, fa il vento, No, no. brava, brava Rosanna. Naturalmente onde, tutti che gridano aiuto, aiuto, e arrivano verso la Norvegia. Arrivano in un isolotto, in un'isola di Rosto, nella Lofoten, e rimangono lì per 3 mesi e iniziano a vedere, entrano in contatto con la lavorazione del merluzzo, dunque dello stoccafisso, che si chiama baccalamo, tu hai in mente un termine di derivazione spagnolo, stoccafisso da stoccafisso, che è norvegese, e vedono che è un pesce che può essere conservato benissimo, ha moltissimi nutrimenti, costa pochissimo, e dunque loro lo riportano a Venezia. E voi sapete che in Veneto, almeno in Italia, sono i più grossi, cioè i migliori che cucinano baccalà in tutte le maniere, tutto quanto. E bisogna dire che ancora oggi i veneziani e alcuni ristoranti vanno ancora all'isola di Rosto ad approvvigionarsi ancora ad oggi. Addirittura. Sì. Wow. Bene, allora, Fiorella, dimmi, cara. Le tue storie finiscono sempre con una nota alimentare, non si sa perché. Non e si forse sa è l'ora, come, non lo so. Sarà pure l'ora. Va bene, senti, allora, io proporrei ancora un brano musicale, ci ritroviamo fra poco. Mi raccomando, rimanete con noi, con i colori dell'anima. Noi continueremo a interrogarti, magari Anna Maria si deciderà a fare il vento, la pioggia, che ne so. No, mi rifiuto. Va bene, no, d'accordo. Il vento, la pioggia non la so fare. Fa il sole, allora. Il sole è muto. Il sole che splende. Fa il sole che splende. Dai, c'hai un bel sorriso. C'hai la faccia da sole. Va bene, allora ci ritroviamo fra poco. Mi raccomando, rimanete con i colori dell'anima. Ed eccoci qua dopo questa pausa musicale, mentre si sono fatte le 21:38, il tempo passa molto veloce, soprattutto quando siamo con Fiorella, vero Anna Maria? Assolutamente, presente. Allora, che Fiorella che questa sera si è veramente documentata. Eh sì. Com'è? Sei tu una donna di conquiste? Come mai questo argomento ti ha affascinato? Ma allora hai sentito quello che ho detto prima? No, ho sentito tutto, scherzando. Però capita pure che mi distraggo, che magari devo fare delle cose tecniche qua regia. No, perché, non lo so, ti dico, questo viaggio che ho fatto, ma come tutti quanti i viaggi ti porti sempre qualche cosa, no? Dentro. Però a volte quando viaggi, incontri un nuovo paese, hai prima cosa l'impatto territoriale, come dicevamo prima, poi con le persone. E Lisbona, il Portogallo, è veramente la porta verso l'oceano, verso il mondo, no? Allora tu dici, ma sono partiti da qui, cioè non è che partono adesso con delle belle navi, ritornano col telefonino, partirono all'avventura, dunque ti hai ancora di più, come dire, il senso della conquista, cioè tu vai verso l'ignoto e che cos'è. E poi è un senso anche di rispetto per quello che noi siamo, rispetto verso le persone che sono state prima di noi in condizioni proibitive. Se noi vediamo come negli ultimi 500 anni, che non sono tanti per l'umanità, no? Eppure no. L'umanità è cambiata, abbiamo scoperto il mondo, abbiamo girato. Adesso è facilissimo, con un aereo fai un giro e vai la mattina e puoi tornare anche la sera. Ma una volta no, dunque è tutta questa scoprire, sì, in questo caso sono una donna che piacciono le scoperte, perché mi meraviglio ancora di tutto quello che c'è intorno. Però come diciamo prima, noi abbiamo avuto delle scoperte di cambiamenti sostanziali, anche, senza andare lontano, senza andare a scoprire l'America, oppure noi abbiamo fatto una rivoluzione all'interno dell'Italia stessa negli anni 60 con i flussi migratori dal sud al nord, no? Diciamo che l'apertura delle industrie, cioè quando noi vediamo quei film di tutti, sai, tipo Totò che va a Milano, che si porta il formaggio, il salame, cioè è assurdo, però effettivamente quel povero Cristo a quell'epoca il salame non l'avrebbe trovato così, perché a Milano, adesso che è una delle capitali del benessere e tutto quanto, però all'epoca a Milano non c'erano tutte queste cose. Negli anni 60 a Milano non si conosceva che cosa fosse la caprese. o tantissime altre cose. Dunque, beh, immagino che la mozzarella non c'era comunque, o comunque che non arrivasse a Milano. No, io so di gente che si è mangiata i gamberi con tutte le cocce, perché non sapeva come aprirli, ecco. Ragazzi, o per esempio la prima volta che portai qui 30 anni fa dei fichi, e delle persone belghe le dissero non so buoni, l'avevano mangiati con tutta la buccia. Cioè, non dobbiamo andare tanto e tanto dietro, diciamo che anche a distanze più ravvicinate, come può essere Napoli-Milano, che sono 600 chilometri, c'erano delle grandissime differenze. Ora, che non c'è stato un Cristoforo Colombo, però c'è stato un qualcuno che ha fatto l'autostrada del sole, dunque che ha unito. Se vi ricordate bene, una volta quando c'era il servizio militare obbligatorio, le persone del sud si mandavano al nord e viceversa, sì. No? Prima cosa per poterli, perché all'epoca non è mica tutti parlavano italiano, si parlava in dialetto, tutti quanti. E poi anche per scoprire un'Italia che sulla carta era unita, ma di fatto non era, perché non si conosceva. Cioè, tu non puoi unire un qualche cosa che non conosci, giusto? Come noi non conoscevamo molte abitudini del nord, dunque, diciamo, queste scoperte, fin dei conti, sì, le grandi scoperte, l'America, l'Africa, importantissime, però se ci rendiamo conto, forse dobbiamo ancora scoprire proprio il territorio a noi più vicino, no? Giusto? Non, molte volte rimane... Comunque, secondo me, la cosa negativa, diciamo, della scoperta, in particolare di queste scoperte geografiche che hanno caratterizzato la storia del mondo, e il pensare che il luogo dove tu vai è arretrato e più indietro rispetto a te, e che quindi tu hai il diritto di sopprimerlo, di cambiarlo a tua immagine e somiglianza, di obbligare la gente del luogo a parte a schiavizzarla, ma anche a parlare la tua lingua come se loro non avessero una lingua, insomma. È questo che penso è stato tremendo, ma probabilmente è stato l'unico modo in cui si potevano fare le conquiste, cioè se uno andava lì con un atteggiamento fraterno di pace, probabilmente non sarebbe successo niente. Certo è che molte appunto di queste conquiste hanno dato origine probabilmente a delle guerre che oggi sono ancora in corso, cioè mi immagino che in molti paesi africani la colonizzazione, invece di far dialogare le tribù, le ha rese ancora più lontane, e quindi tanto da dare luogo a genocidi e cose del genere. Quindi è ovvio che la conquista ha una connotazione molto negativa, molto offensiva nei confronti del luogo e delle persone conquistate. Ma del resto la parola conquista in sé per sé, che magari, che ne so, nel campo scientifico forse ha un bel atteggiamento, ma magari nel campo così dei viaggi effettivamente... Ma vedi, tu hai usato due termini successivi, perché si parte dal termine che è pacifico e che è alla base di tutto, cioè la scoperta, giusto? Cioè la scoperta del nuovo mondo, la scoperta di qualsiasi cosa. Però purtroppo, forse nel nostro essere umani, dalla scoperta, visto che siamo i primi, allora si passa alla conquista. E da lì si passa alla colonizzazione, giusto? Dunque... Il termine conquista, il termine scoperta, purtroppo io penso che non sia mai rimasto così com'è, cioè ho scoperto e l'ho lasciato, no, questo no, perché come diciamo prima, tutte queste scoperte hanno avuto alla base una dimensione economica, cioè si parte... Ma la motivazione stessa della sempre, scoperta. Sì, ecco, cioè i grandi esploratori come Livingstone che sono andati, però in fin dei conti poi devono portare qualcosa dentro casa, giusto? Ecco, perché il finanziatore ti ci manda, però in cambio vuole un qualche cosa, ecco. Dunque, sì, diciamo che ci dobbiamo fermare al fatto... Forse soltanto le scoperte scientifiche, allora a questo punto rimangono scoperte? La scoperta. Beh, si conquista. Potrebbe anche qui aprire tutto un dibattito. Vabbè, lasciamo stare. Ti prepari tu. La prossima volta mi preparo io. È ovvio che poi la scoperta scientifica, anche quella può portare in tante direzioni. Dipende dal comportamento etico dello scienziato di sapere utilizzare quello che scopre a fin di bene o a fin di male. Io penso che 99 su, ma no, 99 9999 su 10.000 usano bene le scoperte che fanno, però quel qualcuno che lo usa male, insomma, poi è ovvio che rovina la categoria. Però sì, è vero, anche in campo scientifico si può utilizzare male o anche lì, insomma, per motivi economici. Anche lì, insomma, sì. A parte forse le scoperte scientifiche, il campo medico che servono per migliorare, ma diciamo che tutte le scoperte dovrebbero migliorare l'essere umano, giusto? La situazione dell'essere umano, la condizione dell'essere umano, perché anche queste scoperte, per quanto possono abbiano una parte negativa, però è indubbio che hanno portato la specie umana a migliorare, soprattutto con un'alimentazione più ricca, con altre cose, evolvere in qualche modo. Certo, in tutto c'è un risvolto negativo. Io spero che non avremo più periodi di Cortés, come si chiama? Comunque, va bene. Allora, io proporrei ancora un brano musicale, poi ci ritroveremo per i saluti in fine trasmissione. Vi ricordiamo appunto che abbiamo parlato di conquiste, poi Fiorella ci spiegherai anche il colore al quale nel frattempo avrai pensato, ma ce lo spieghi dopo. Quindi mi raccomando, rimanete con i colori dell'anima, con Anna Maria, Rosanna e questa sera Fiorella. A dopo. Ed eccoci qua nell'ultima parte della trasmissione di oggi dei colori dell'anima. Vorrei salutare Cristina, che oggi doveva venire in radio ma che non è potuta venire. Ciao Cristina, mi raccomando, Cristina. Guarisci Cristina. Presto. E volevo appunto ritornare all'argomento di oggi, quello delle conquiste, prima di chiederti del colore, Fiorella. Non abbiamo parlato, o forse mi sono distratta, di Asia. Sì. Sicuramente una parte dell'Asia è stata conquistata dall'Olanda, ma com'è che l'Asia tutto sommato poteva essere anche più facile da raggiungere perché si poteva raggiungere via terra? Vedi, sei distratta. Che sono distratta all'inizio. Sì. Ridillo, dai, ridillo. C'era Venezia che si era appropinquata di tutta con la rotta della strada della seta, Marco Polo e con gli altri, aveva preso tutti quanti i traffici. Dunque, ho capito. E questa parte qui, quella parte dunque era già presa dai veneziani. Ho capito. Ma soprattutto non si poteva andare in essa per quello, perché i Mori avevano bloccato con le crociate e tutto quanto anche lo stretto del Bosforo. Dunque, non si poteva. Dunque, per forza di cose, bisognava fare il giro largo, lungo per l'Africa, capito? Dunque abbiamo scoperto l'Africa, andando verso le Indie, capito? Due cose in una volta, si chiamano due piccioni con una fava. Va bene, allora, che colore abbiamo trovato per questa serata? Ma io pensavo lo giallo zafferano, giallo, per chi mi ricorda le spezie, ricorda di questi viaggi. Forse. Non perché sei abruzzese o almeno... anche questo, anche... Allora potremmo fare un giallo curcuma? No, va bene anche giallo zafferano. Non ci complichiamo la vita, lo zafferano va benissimo. Ti ricordi come l'altra volta? È un bel giallo. Ti ricordi il fucsia l'altra volta? Il fucsia, sì. No, ma lo giallo zafferano mi piace. Sì, mi piace. Sì. Non è il solito giallo, è un zafferano. Giallo speciale. Aspetta, poi, come dicevi tu, lì vedi che provochi però, perché lo zafferano marocchino è differente dallo zafferano abruzzese. Ah, quello nostro è bello oro, un altro colore, da quello spagnolo che è un po' rosso. Ora, e si chiama sempre zafferano. Sempre zafferano. Ma nel senso che la pianta è la stessa, cioè la pianta dello è zafferano. La stessa, sì, però ho capito. Altitudine e cose differenti, perché anche in Spagna c'è uno zafferano. Senti, e di che colore è un campo di zafferano fiorito? Violetto. Vedi che volevi fregarmi. Secondo me era veramente una domanda a trabocchetto. Voglio dire, lei è una donna dell'Abruzzo montuoso, quindi queste cose le deve sapere, se no la rimandiamo a settembre. Anche tu le sapevi? Sì, lo sapevo, ma da altri, non l'ho mai visto dal vero io. Allora, l'ho visto in foto. Allora, la prossima volta ti porto, perché io ogni anno fino all'anno prima del terremoto, però il prossimo anno forse, se Dio vuole, riusciamo a tornare nelle case. Anche questa è una bella notizia, perché si sta ricominciando un po' la ricostruzione, si ricominciano anche la coltivazione di zafferano, che veramente non si è mai interrotta, ma io ho la tradizione di portarmi sempre qualche crocus e coltivavo qua in terrazzo. Te le porterò, ti chiamerò e vedrai che colore è. Va bene, d'accordo. Le vai a rubare ai campi? No, me li, sono, me li compro. No, perché i campi lì ti sparano. Ah, ti sparano, cioè, no, costa parecchio. Guarda. No, comunque veramente lo zafferano costa tantissimo. È quotato in borsa, lo sai, quello di Natale è quotato in borsa. Ah, cara, non lo sapevo. Sì. Infatti si chiama l'oro giallo. Ecco. Questo per tu lo sapevi che di Navelli, Navelli è il posto famoso, certo, di produzione. Ma pure tu lo conosci? No. La storia ma sto cercando, Marche, ma insomma. Ma sto cercando di vendermi un pochino. Sì. Ah. Capito? Vabbè, guarda che nel mese di agosto c'è la sagra dello zafferano a Navelli, dove si mangia tutto il riso, risotto, crocchette di ma che sta a fare la cosa promozionale per l'Abruzzo. E poi anche no? I ceci, sì, vabbè, abruzzese, i ceci. Va bene. Allora, Fiorella, grazie mille, ci fa molto piacere che tu sia venuta. La settimana scorsa appunto eri prevista in trasmissione e poi ti sei ammalata, quindi ci fa piacere che sei guarita e con la tua bella voce squillante, anzi più del solito, forse ti ha fatto bene questa... E lo sciroppo. E lo sciroppo. Lo so, va bene. Voglio anch'io il suo sciroppo, però adesso vado dal suo medico e me lo faccio da... No, io vi ringrazio tantissimo, sapete che sono molto legata a voi, certo. Voglio tanto bene, mi piace tantissimo. Grazie. E poi mi dà l'occasione di informarmi. Infatti, e di informare noi. Grazie mille, buona serata a te Fiorella, a te Anna Maria. Buona serata a tutti. A tutti i radioascoltatori e naturalmente rimanete qui con Radio Alma, con I Colori dell'Anima fino alle 22, poi ci sarà la musica non stop, mentre invece noi torneremo ancora lunedì prossimo, sempre alle 21. Ciao ciao! Ciao a tutti! Ciao a tutti!